Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Abbiamo pensato che l'Archivio Atos fosse la prima grande opportunità per ripensare anche in modo nuovo, in modo radicale, la fruizione di un archivio, diciamo, sonoro, un archivio audiovisivo. E qui, con Malagola, con tutto lo staff di Ravenna Teatro, con Ermanna Montanari, abbiamo immaginato quella che sarà per noi il punto di caduta della fruizione dei materiali, soprattutto sonori e vocali di Demetrio Stratos, e che è l'organizzazione di una stanza immersiva in cui poter fruire in modo esperienziale del materiale di Demetrio Stratos. Ecco, questa è una cosa che in Europa ancora non è arrivata, non è giunta se non in pochissimi e sperimentali casi, però vorremmo che fossimo proprio noi e la Regione Emilia-Romagna a dare l'avvio anche in questo senso. Cioè, che cosa significa oggi pensare l'archivio e la fruizione d'archivio non più secondo gli standard normali di acquisizione, ma dentro un ambiente, dentro uno spazio, in cui quella voce di Demetrio Stratos, che è spazio, che è stata spazio, che è stata, diciamo, costruita come un'esperienza, lo diventasse anche per coloro che ascoltano questo materiale a distanza di tempo e quindi abbiano una nuova frequentazione, un nuovo approccio con questo che cambi completamente i parametri della fruizione. Quindi chi verrà a Malagola nei prossimi tempi, è chiaro che ci sono dei tempi tecnici di realizzazione di questa stanza immersiva, ma è quella la direzione. Abbiamo già cominciato a lavorare in quel senso, adattando delle stanze straordinarie di quel palazzo e quindi lì davvero il ringraziamento al Comune di Ravenna, all'assessore Sbaraglia e al sindaco De Pascale è un grande proprio per aver messo a disposizione il Palazzo Malagola che ci permette anche di diversificare le nostre attività. In evidenza anche una cosa, abbiamo già pensato, abbiamo già immaginato di immaginare su questa onda di rivisitazione del materiale archivistico anche dei percorsi espositivi originali, che non siano semplicemente mostra, ma qualcosa che permetta di costruire un percorso espositivo in grado di valorizzare i materiali. Ecco, la partenza dal materiale, da ciò che ci suggerisce, è quella che ci permetterà di costruire un'esperienza per gli spettatori e le spettatrici che verranno a Malagola. In questo abbiamo anche progettato, e lo faremo anche operativamente a breve, una serie di operazioni di disseminazione che riguardano anche il rapporto con l'Università di Bologna. Tengo a dirlo questo perché abbiamo immaginato, come sempre ne abbiamo discusso con il Comune di Ravenna e con la Regione, un primo appuntamento che sarà un mio seminario per il Centro Internazionale Umberto Eco il 18 di maggio, dove comincerò a riflettere, ecco, su alcune delle questioni che il Fondo Stratos ci pone, ci permette di analizzare alcuni percorsi che lo legano trasversalmente. Qui c'è un altro aspetto fondamentale da sottolineare, la trasversalità di questo materiale tra la dimensione e quella performativa e una riflessione più ampia appunto sui materiali a disposizione. E così seguiranno anche altri eventi, sempre con il Centro Umberto Eco, con altri luoghi dell'istituzione Università di Bologna. Grazie Enrico per aver, diciamo così, dato la dimensione istituzionale che ha portato alla messa a disposizione di questo materiale che abbiamo appena iniziato a visionare, studiare per trovare il modo più corretto per restituire alla cittadinanza, a tutti coloro che vorranno studiare di Stratos, una realtà complessa come quella che può essere un archivio personale del secondo Novecento di un musicista. Quindi una realtà che non è fatta di confini precisi, di modi, potremmo dire così, tradizionali. Uno immagina che appunto in un archivio ci siano i documenti. È in realtà uno spaccato di vita di una persona attraverso quegli anni, con tutto ciò che questo si porta con sé. Per cui ci sono materiali di studio, sicuramente appunti, ma anche un pezzo della sua biblioteca. Ci sono gli oggetti con cui assieme alla moglie hanno costruito la loro vita e hanno costruito, diciamo così, anche dopo la morte di Stratos nel 1909, l'immagine stessa di Demetrio Stratos. Ricostruire tutto questo ci permette in realtà di ricostruire un punto di vista che non è l'unico, che non è, diciamo così, non ci racconta una volta per tutte che cos'è, chi è stato e cosa ha fatto Demetrio Stratos, ma ci mostra il punto della sua quotidianità, della sua vita, vocale calata nella materialità delle cose che, come ogni, diciamo così, dimensione materiale, sopravvivono alle persone stesse. Questo calato presso la casa che abbiamo visto, da cui abbiamo preso i materiali, che è essa stessa, diciamo così, un modo di leggere la figura di Stratos. Poi ovviamente con i materiali sonori, audiovisivi, fino anche gli appunti più minuti, il rapporto con John Cage, cioè, diciamo così, permette tutto questo materiale di avere probabilmente un che altrimenti sarebbe imprendibile di una figura come quella di Stratos, e metterla a disposizione di tutti. Quindi ci siamo una mediazione tra due responsabilità: da un lato quella di preservare questo materiale, dall'altro rendibile a tutti coloro che vorranno studiarlo, grazie alle nuove tecnologie, quindi digitalizzando e mettendo a disposizione, ma vedendole anche sul posto, perché davvero è un insieme di singoli oggetti che solo comprendendoli lì, nel luogo dove sono, si può, diciamo così, sviluppare un punto di vista nuovo e diverso di Stratos. Grazie.